lontano da te, facendo attenzione con passi leggeri, già vedo la luna là fuori, che spia attraverso una tenda socchiusa, lanciando messaggi che